Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Oh, cosa devo dire? Ciao Chiara. E ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. E noi incominciamo con? Cominciamo con una sfida, pazientilla contro bugiarding. E non diciamo niente di più, e poi invece un bel esperimento di sostenibilità che potremmo chiamare 100%. Pronti, via. Via. La Mebius Film 24 presenta Pazientilla contro bugiardinga. Leggete attentamente questo foglietto illustrativo prima di prendere questo medicinale per l'asma. Effetti collaterali: infezioni fungine della bocca e vaginali, disordini del ritmo cardiaco, mancanza di ritmo cardiaco, tremori, vertigini, senso di oppressione al petto, gonfiore di mani e piedi, allucinazioni, respiro corto e attacchi d'asma. E quando pensavate che la predizione fosse giunta alla fine, stitichezza e diarrea. Questa è la cosa che mi fa impazzire maggiormente, Federico. Un medicinale può dare effetti opposti, l'abbiamo appena sentito, stitichezza e diarrea, ecco. Certo, un medicinale contro l'asma può dare attacchi di asma, ecco, e non è facile questo da accettare per un paziente, insomma. E quando uno soffre di asma, sentirsi dire che curandola potrebbe avere oppressione al petto, insomma, fiato corto e così via, insomma, ci siamo capiti. Drammatico. Ecco. Quindi il tema è un po' questo, quello che c'è scritto nei bugiardini, ovvero le istruzioni che sono all'interno dei medicinali. Mica ovviamente solo quelli per l'asma, ma anche gli altri, va bene, insomma, abbiamo iniziato così in questo modo divertente con la sfida pazientilla contro bugiardinga, ma il tema è serio, molto scientifico, e a noi sembra che ci sia un problema, forse solo di comunicazione probabilmente, qualcosa che non funziona nel rapporto tra quella che è la cura, il farmaco e il paziente. Una relazione che ormai da un po' di anni si è capito sia importante e quindi bisogna prestare un po' di attenzione. Infatti qui abbiamo due ospiti eccellenti che ci aiuteranno a capire. Abbiamo Silvio Garattini, buonasera Garattini. Buonasera. Direttore dell'Istituto Mario Negri, che è una realtà italiana che da anni, insomma, analizza le teoria e pratica dei farmaci, una realtà di riferimento. E poi abbiamo Paolo Longoni, buonasera Longoni. Buonasera a voi. Medico di base, ma che però fa parte di una comunità medica, no? È una specie di studio associato. In quanti siete? Siamo in cinque a lavorare insieme. Quindi avete una casistica di migliaia e migliaia di pazienti, e questo e quindi non magari interessa. Ci racconterà anche le esperienze dirette, se esatto, davvero esistono, certo, questi sintomi. Incominciamo con Garattini. Allora, qui c'è un problema di comunicazione verso i pazienti su a partire da un oggetto quanto mai sensibile dal punto di vista psicologico, che è un farmaco, no? Che cos'è che, cioè, secondo lei questa cosa funziona? Ma questi tipi di bugiardini non sono un po' terrificanti? Non dovrebbero essere cambiati? Certamente la comunicazione dei bugiardini è pessima, e bisogna anche capire come è fatta, cioè è fatta sostanzialmente per difendere gli interessi delle aziende farmaceutiche, le quali, nel caso in cui capiti qualsiasi cosa, può dire te l'avevo detto. Cioè si cerca di mettere tutto quello che è possibile e immaginabile, proprio perché non ci siano poi delle possibilità di rivalsa e delle rimostranze. Sì. Bisogna dire che però questo appartiene molto alla vecchia tradizione e ai prodotti di vecchia data, perché i nuovi prodotti hanno invece un foglietto illustrativo che è in parte diverso, cioè un foglietto illustrativo che è fatto di domande e risposte. Quindi anche un po' più di semplice lettura, ecco perché. Esatto, e quelli nuovi di fatto indicano quali sono gli effetti collaterali più comuni, quelli meno comuni, e poi per tutti gli altri dice sostanzialmente se senti qualche sintomo inatteso rivolgiti al tuo medico. Certo. È la via insomma molto più logica rispetto a quella. Purtroppo però la stragrande maggioranza dei farmaci è ancora reca ancora questo tipo di foglietti illustrativi che sono molto confondenti e molto scoraggianti per il paziente. Perché poi entrando nel merito, dal punto di vista della comunicazione, non è brillante, però anche nel merito uno che appunto soffre di asma, magari anche con qualche attacco di ansia, insomma, dovuto appunto alla condizione psicologica, certamente anche non aiuta. Anche se non dobbiamo passare in qualche modo al limite opposto, nel senso che bisogna comunque che la gente sappia che l'assunzione di un farmaco non reca soltanto benefici. Qualsiasi farmaco che sia attivo reca necessariamente anche degli effetti collaterali, che sono più o meno marcati a seconda delle persone, a seconda delle dosi, a seconda della sensibilità, ma il concetto che non esistono farmaci innocui è un concetto che deve passare, perché i farmaci non vengano assimilati alle caramelle come vorrebbe una certa propaganda. Sì, infatti su questo torneremo a lei. Però sintomi così opposti, anche prima scherzando appunto l'abbiamo detto, stitichezza, diarrea, cioè l'opposto. No, questi rispondono al fatto che qualcuno ha segnalato stitichezza, qualche altro ha segnalato diarrea, e l'industria, per non fare torto nessuno, mette tutto, così tutto. Qualsiasi Benissimo. Cosa succede sono in qualche modo tranquilli. Certo. Longoni, tra appunto le migliaia di persone che voi curate, emerge questa lettura angosciante dei bugiardini, delle istruzioni, cioè che vi chiedono ma come può essere, cosa devo fare, non sarà pericoloso? No, diciamo che è una cosa abbastanza rara che il paziente ci interpelli dopo aver letto il bugiardino cosiddetto per chiederci ulteriori informazioni. In genere le abbiamo da parte di pazienti più attenti e culturalmente più diciamo avanzati rispetto alla media. Quello che in effetti vediamo noi è che abbiamo a che fare molto spesso con pazienti che non assumono un solo farmaco, ma assumono addirittura decine di farmaci tutti i santi giorni della loro vita, perché affetti da molte diverse patologie. E qui si vedono quindi delle interazioni positive o negative, molto più spesso negativo devo dire, tra diversi farmaci che in realtà presi singolarmente cozzano l'uno contro l'altro. Questo è un bel problema. Questo è un fatto che va ricordato. Purtroppo la popolazione sta invecchiando, con l'invecchiamento della popolazione abbiamo la presenza di diverse patologie croniche concomitanti, quindi c'è una multimorbilità e l'interazione appunto tra i diversi farmaci che vengono somministrati per curare le patologie di base sono cose relativamente sconosciute. Teniamo conto che all'università ci insegnano sempre delle interazioni al massimo tra due farmaci. Certo. E noi abbiamo pazienti che assumono 10, 15, 20 diversi principi attivi ogni giorno. Poi è difficile anche andare a investigare, appunto. Allora, fermiamoci un attimo. State con noi che andiamo a vedere cosa succede nel traffico e poi torniamo alle medicine. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, stiamo vedendo quale può essere la partecipazione tragica del paziente alla lettura. La sfida pazientilla e bugiardinga. Garattini, torno a lei. Io so che lei è anche un sostenitore del fatto, e un po' tutto l'istituto, insomma, che ne abbiamo veramente troppi di farmaci. Longoni, appunto, adesso ci ha ricordato che c'è gente che ne prende 15. Qui bisogna capire se effettivamente potrebbero andare diversamente le cose. C'è anche però uno sviluppo della tutta farmacopea che sta arrivando verso una personalizzazione del farmaco, forse verso il paziente, comprendendo le differenze fra i pazienti. Forse questo potrebbe eliminare questo tipo di interazioni? Beh, la personalizzazione diciamo che è ancora un obiettivo da raggiungere, cioè non se ne parla molto, ma è molta più propaganda che realtà. C'è ancora molto da fare per quello. Quello che diceva invece giustamente il dottor Longoni è che oggi non abbiamo più a che fare con singole malattie, ma abbiamo la stragrande maggioranza dei casi, il 70% dei consumi dei farmaci avviene negli anziani perché hanno polipatologie. E qui invece bisogna fare una riflessione molto importante e bisognerebbe fare della ricerca, perché il problema è: sono tutti necessari questi farmaci? E noi pensiamo di no. Ecco, in che senso? Diciamo, cioè, forse c'è un abuso. Che non siano necessari tutti e che invece si possa fare probabilmente molto meglio, però bisogna provarlo. All'Istituto Mario Negri abbiamo un programma che facciamo col Policlinico di Milano che si chiama Reposi, che è un programma in cui da molti anni rileviamo quali sono i farmaci che assumono i pazienti di un ospedale, che vanno in un ospedale di medicina interna. E quello di cui ci si accorge è che molto spesso purtroppo quello che succede è che ogni specialista che visita un paziente con polipatologie dà i suoi farmaci, ma non c'è nessuno che poi faccia la sintesi e che decida se tutti sono necessari oppure no. Questo è probabilmente uno dei cambiamenti che deve avvenire. Poi ci vuole ricerca per capire se è meglio usare tanti farmaci o se invece usandone un po' di meno si ottengono risultati infatti migliori. Per capire bene questo passaggio, nel senso che un anziano potrebbe avere bisogno di meno farmaci perché alcuni, come dire, quelli che prende sono un po' inutili o preventivi, oppure si pensa a sviluppare dei farmaci che magari abbiano uno spettro, non so, più ampio? Tutte e due le possibilità, però la possibilità più concreta e più immediata è quella di vedere, di eliminare farmaci che, come diceva il dottor Longoni, possono dare delle interazioni, cioè possono dare degli effetti negativi. Questi devono essere, anche qui ci sono i testi da consultare, ci sono vari sistemi, però è vero che tutti prendono in considerazione interazioni fra due farmaci. Dobbiamo invece cominciare a studiare interazioni fra molti farmaci, probabilmente avremo molte sorprese. Longoni, nel preparare appunto questa intervista, questa conversazione, lei mi diceva che però, per esempio, qualche caso estremo di questi appunto che appaiono nei bugiardini, voi l'avete ogni tanto. Ogni tanto l'abbiamo, sì. La cosa diventa di osservazione quando ci si pensa. Cioè, una delle cose che va sempre tenuta in mente, specialmente quando i pazienti accusano sintomi strani, tra virgolette, è che questi segni clinici, questi riferimenti di malori o di malesseri possono dipendere in qualche misura da farmaci che il paziente magari assume da anni. Spesse volte trova subito la soluzione del caso clinico e anche la soluzione, altre volte, semplicemente sospendendo il farmaco o sostituendolo con uno più appropriato o meglio tollerato. E poi ci possono essere delle situazioni in cui magari la vita del paziente, per una determinata cosa, magari ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male e il farmaco non c'entrava nulla, ovviamente, però magari la spiegazione è difficile poi da ricostruire. Diciamo che c'è una situazione di complessità e di incertezza nei nostri ambulatori di medicina generale che è veramente molto difficile da gestire. Ci sono casi dove banalmente si inizia a dare un farmaco, mi viene in mente il caso di una persona che prende, un anziano che assume un diuretico perché è iperteso. Il diuretico produce una carenza di potassio. Allora uno cosa fa? Gli dà del potassio per bocca, ma questo gli fa venire un po' di gastrite. Quindi l'anziano torna col bruciore, gli si dà un inibitore di pompa per togliere questa gastrite. Ma questo inibitore di pompa a sua volta può peggiorare quadri di osteoporosi. Allora si danno dei farmaci per osteoporosi che danno però delle esofagite. Cioè, è una cosa interminabile se uno sta dietro a questo modo di ragionare. Certo, il consiglio è: state bene. Cerchiamo di fare il possibile. Prevenire. Va bene. E grazie, dottor Longoni. Grazie Garattini. Insomma, abbiamo sgrizzato un po' grazie il problema. Grazie a voi, arrivederci. C'è un bel numero quando si parla di progetti di sostenibilità ambientale, quindi di questa grande sfida che dobbiamo riuscire a vincere, c'è davvero un bel numero, una bella cifra, che è 100%, ovvero un risultato che può avere questa conclusione finale. Non è rarissimo, diciamo, per fortuna, però è raro, no? Dire che c'è qualcosa che sta andando verso il 100% non è cosa facile. E di questo 100% parlo questa sera con Gianni Zanella. Buonasera Zanella. Buonasera dottor Petrocchi. Allora, lei è amministratore delegato dell'Olympias Group, azienda italiana che è al centro di un progetto europeo che vede diversi soggetti. Siamo nel campo dell'industria tessile e andremo con lei a vedere un impianto che non è in Italia, dov'è? No, è in Croazia. È in Croazia. Stabilimento in Croazia. Magari brevemente diciamo chi sono gli altri partner del progetto? Gli altri partner del progetto sono l'Europrogetti, che è una società che ha una lunghissima esperienza nella progettazione di impianti per il trattamento refluo di acque industriali. Okay. E la Aspel, che è una società che è specializzata nella gestione e nel servizio di assistenza di impianti sempre di depurazione delle acque reflue civili ed industriali. È un progetto che sta cercando di fare bingo. Questo vostro progetto non è ancora raggiunto, ma sta avviandosi velocemente. Siete molto determinati ad avere un 100%. Ma su che cosa? Questo stabilimento, prima dell'intervento che abbiamo già realizzato, consumava all'incirca 1600 metri cubi di acqua al giorno. Tessile così. Con il primo step noi siamo stati in grado di ridurre questo consumo a soli 600 metri cubi, quindi risparmiandone 1000 metri cubi al giorno. È una bella botta. È l'equivalente dell'utilizzo quotidiano di una popolazione di 7000 individui. Si è passati di qui, insomma, da queste cifre, però si può diminuire. Insieme al recupero dell'acqua, che già di per sé è qualcosa di molto importante, basti pensare che le risorse idriche non sono purtroppo un bene inesauribile, no, e che nel mondo oltre 1.300.000.000 di persone non hanno accesso all'acqua potabile ancora. Quindi alla luce di questi dati è un dovere, noi lo abbiamo assunto come un dovere, che le imprese sostenibili debbano investire nel ridimensionare i propri consumi idrici. Quindi non è una scelta facile, ma è necessaria per l'industria tessile che consuma moltissima acqua nei propri processi. Quindi dicevo, abbiamo ridotto i consumi di 70% e in più siamo riusciti ad ottenere il recupero di acqua che ha una temperatura, cioè è acqua sostanzialmente calda, perché i nostri processi indoriali abbiamo appunto un forte utilizzo di acqua calda, e quindi recuperandone molta recuperiamo anche moltissima energia. Tant'è che il bilancio termico ci fa risparmiare 1250 tonnellate all'anno di CO2. Perché avete, allora vediamo di fare rapidamente una sintesi: da una parte il processo di tintura vede una diminuzione secca già del 75%. Dopodiché però un altro modo per fare sostenibilità è accorgersi del fatto che ho dell'acqua che ha una certa temperatura, perché buttare via quella temperatura? Voi la recuperate in che modo? Nel senso che quest'acqua che recuperiamo possiamo evitare di riscaldarla. Esatto. Quindi rientra nel processo produttivo più a valle, con una temperatura che è già quasi pronta. Esattamente. Però si può arrivare al 100%? Sì, possiamo arrivare al 100%. Infatti questo è il progetto che credo riusciremo ad implementare nel corso della seconda metà del 2016, dove spingeremo al massimo tutte quelle fasi che già oggi funzionano nell'impianto, caratterizzate da un bireattore che in maniera particolare separa i solidi sospesi e le biomasse, i batteri nel bacino di ossidazione dell'acqua, sì, i filtri con resine che riescono a decolorare l'acqua, filtri che riescono anche successivamente, tutto questo in cascata, a rimuovere la durezza, cioè il calcio. Poi la osmosi inversa, che è una particolare azione realizzata con speciali filtri e con speciali pompe che ci danno la possibilità di eliminare i sali, che sono, diciamo, la componente più difficile da eliminare nell'acqua. Quindi spingeremo al massimo tutte queste fasi di filtrazione e otterremo a valle di tutto questo processo una specie di salamoia che sarà un concentrato di sali e ancora con una frazione di acqua. A quel punto il progetto prevede il recupero dell'acqua da questa salamoia mediante la sua distillazione. Per poter fare questo abbiamo necessità di molta energia, energia che ricaveremo da pannelli termosolari, quali utilizzeremo dell'acqua calda, bollente, che ci servirà per generare del vapore e quindi per arrivare al recupero dell'ultima frazione d'acqua in questa sala. Quella mancata. In realtà tutta questa parte finale fa sì che si continua a riutilizzare la stessa acqua. Sì, esattamente. È qui che l'acqua, c'è il risparmio totale. Esattamente. L'acqua entrerà quindi in un circuito chiuso. Mm-hmm. Quindi l'acqua che noi utilizzeremo sarà sempre la stessa, diciamo, all'infinito. Se penso a una grande rivoluzione che c'è stata con le piscine, no? Che una volta continuavano a immettere acqua, adesso ci sono dei sistemi per cui la si riempie una volta ed è sempre la stessa. Questo, che per una piscina è assolutamente banale, diventa tremendamente più complesso per un impianto come un'industria tessile, però la filosofia è esattamente la stessa. Siete fiduciosi? Cioè vi sentite in direzione? Sì, ci sentiamo fiduciosi anche perché abbiamo capito che la tecnologia disponibile c'è. E quindi è sicura nei suoi risultati, ovviamente diciamo è impegnativa dal punto di vista economico. Tuttavia il risparmio che si ottiene agendo su queste leve, cioè del recupero totale dell'acqua, fa sì che il bilancio finale sia comunque positivo. Poi dobbiamo sempre pensare che la sostenibilità è un bilancio che dobbiamo mettere in tutti noi, no? E alla fine di un processo generale che si vedrà quali sono i guadagni, perché i danni che abbiamo da inquinamento, da eccesso di CO2 sono cifre inestimabili. Allora Zanella, buon lavoro, e quando ci siete col 100% ci avvisa che stappiamo una bottiglia di champagne in onda. Certamente, la ringrazio a lei e ai gli ascoltatori. Grazie e tanti auguri. Grazie, arrivederci. Quando la puntata finisce noi ricordiamo... Ricorderei i contatti attraverso i quali gli ascoltatori possono scriverci e darci qualche consiglio, mandarci le domande di scienza, criticarci anche. Allora, moebius@radio24.it è la mail, sui social Moebius Online ci trovate sia su Twitter che su Facebook. Buona settimana. A tutti e a tutte, ciao! Ciao!